Sono in collegamento telefonico con Alberto Rizzi, autore dello spettacolo teatrale Sic Transit Gloria Mundi, che ci sarà il 4, 5 e 6 febbraio al Teatro Deon di Bologna. Ciao Alberto e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Alberto, questo spettacolo racconta una storia decisamente molto particolare, la storia della prima donna che sarà eletta Papa, una storia ovviamente inventata. Ti va di raccontarci un po' la genesi di questo progetto? Sì, grazie Rachele. Dici bene quando dici la donna che sarà, perché non ha nessuna attinenza invece con la leggenda della papessa, della storia della papessa Giovanna, quella medievale. L'argomento è tutt'altro, invece è una storia ambientata nel futuro, dove si immagina che per la prima volta una donna venga eletta al soglio papale. L'idea mi è nata perché volevo fare uno spettacolo che trattasse il tema del femminile e, parlando con le mie colleghe, ma soprattutto con la nostra prima attrice Chiara Mascalzoni, ci siamo domandati come affrontare questo tema in un modo originale, e mi è venuto in mente che nella Chiesa Cattolica per quasi 2000 anni non è esistito nessun impedimento nemmeno che le donne diventassero prete, perché era talmente considerato assurdo che non serviva nemmeno che ci fosse una norma scritta. Partendo da questo presupposto, lavorando di fantasia, ma soprattutto in maniera poetica, ho detto: immaginiamo quindi che sia possibile, anche se improbabile, che una donna diventi papa. Per rileggere sia la storia della donna nella Chiesa, ma anche occidentale, perché poi quello è il pretesto per leggere la figura della donna anche fuori dal mondo della Chiesa e anche oggigiorno. Che tipo di studio, di ricerca c'è stato dietro alla stesura di questo spettacolo appunto così particolare e anche fantasioso? Sì, lo spettacolo ha richiesto una preparazione scientifica. Per circa 2 anni ho studiato quello che era una serie di manoscritti, di libri che riguardassero il modo in cui la Chiesa ha affrontato il tema. Mi interessava sia la visione interna che la visione esterna, quindi ciò che studiosi, teologi, papi, filosofi, padri della Chiesa hanno detto sull'argomento, perché per 2000 anni, ma ancora oggi, i padri della Chiesa stessa si sono domandati se fosse il caso, come e perché una donna possa accedere al sacerdozio. E fra l'altro la cosa interessante è che non sono tutti d'accordo, c'è chi è a favore, chi è contrario per dei motivi, chi per altri, chi è a favore per dei motivi, chi per altri. Quindi la questione che ha attraversato internamente ed esternamente la storia della Chiesa è interessante, perché è un'autoriflessione che però ha dei riflessi anche al di fuori, perché posto per molto tempo con l'immagine in generale che la società aveva della donna o ha della donna, ecco, quindi c'era questo doppio specchio. Guardare come i padri della Chiesa guardavano la donna all'interno della Chiesa, in realtà era come la guardavano anche al di fuori della Chiesa. Chi salirà invece sul palco? Sarà un vero e proprio monologo con in scena solo la papessa? Sì, Chiara Mascalzoni, che in realtà che è la nostra attrice che interpreta questo monologo, dove però non interpreta un solo personaggio. La papessa è uno dei personaggi, in realtà all'interno dei 60 minuti che dura lo spettacolo lei incarna una moltitudine di personaggi, passando anche da uomini e donne, perché appunto a volte da corpo e voce anche ai padri della Chiesa che parlano in prima persona, ma soprattutto conduce una narrazione diretta che si confronta direttamente con il pubblico e lo accompagna in un modo assolutamente anche ironico, perché la fortuna di questo spettacolo, che è arrivato a superare le 100 repliche e 5 anni di tournée, è dovuta al fatto che il tutto è declinato in una formula assolutamente interessante, ironica e che il pubblico apprezza, perché al di là dell'aspetto contenutistico importante c'è una leggerezza e una, diciamo così, ironia che accompagna lo spettatore per tutto il tempo. Perfetto Alberto, direi che non ci resta altro che venire al Teatro Deon a vedere questa storia così particolare raccontata. Ricordo ancora una volta 4, 5, 6 febbraio al Teatro Deon. Grazie ancora Alberto. Grazie a te Rachele, grazie.